è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Cala, cala. Ma che ce frega, ma che ci importa, se il nostro vino ci ha messo l'acqua. E noi edimo, e noi famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondemo in coro. È meglio il vino dei castelli che questa zozza società. La frase più bella dell'intervento ieri sera, Parenzo, di Francone Fiorito, il federale Danagni, nonché il Batman a Porta, con un silente Carlo Taormina che osservava la scena dal suo scettro. La scena criminis. La frase più bella è questa, quando a un certo punto Franco Bechis, vice direttore di Libero, gli dice: scusi, ma c'è anche una ricevuta per 80 euro pagata con il bancomat del partito a un supermercato. Sentite il federale Danagni. Ma la spesa Panorama avrà trovato tre cose delle segretarie che nelle notate del bilancio o quando si fanno le commissioni comprano i panini e li portano lì dentro. Avrà trovato spesa al Panorama vicino alla Pisana, non certo perché facciamo spese ai consiglieri a casa. E vabbè, non è possibile. Vabbè, allora De Roberti, sono ho specialista. Ho comprato io il panino, guardi, è una cosa. Allora, io ho però un crocifisso per un panino con la porchetta. 10 agosto 2011, 81,69 euro al supermercato GS Spa di Anagni. Ma resti. Chi è stato? Non lo so, no, probabilmente lo so. La mia segretaria Danagni che andava a comprare, perché io non entro in un supermercato da 20 anni, penso, quindi non mi faccio la spesa da solo. Però guardi, se è quello gli 81 euro, mi faccio arrestare per gli 81 euro. Sarà 20 anni che non entro in un supermercato. Questo è grave. E abbiamo detto tutto con questo. Questo detto è grave. Tutto. Questo è molto grave. Grave. Adesso fotografa la situazione. Grave. No, insomma, grave, molto grave. Molto grave. Vabbè, ognuno è padrone grave. Di andare al supermercato oppure no. Non è che è obbligatorio andare al supermercato. Ma aggiunto, e tu furbescamente non l'hai rimarcato, e dici: io non vado mai a fare la spesa, non vado più da 20 anni a fare la spesa da solo. Sì. Che vuol dire che ha la servitù che va. Vabbè, benissimo. Ma qual è il problema? No, uno... però è una classe, vuoi dire, completamente staccata dal contesto in cui si vive. Fanno le feste coi maiali, amico mio, coi maiali. Un attimo, termine federale antico e scherzoso, senti. Non lo so, il federale forse perché sono stato segretario provinciale del mio partito già da giovane, io a 24 anni ero già segretario del partito, quindi il federale è un termine antico e scherzoso, ma non mi ci chiama nessuno neanche così, soprattutto Air Batman, proprio non so, ma se lei gira per Nagni, uno che dice Air Batman non lo trova nemmeno con l'anternino. Che diceva del SUV? Che diceva del SUV, quello che ha pagato per il partito? Boh, che diceva? Ce l'abbiamo qua che dice del SUV? Quello che ha pagato, cioè l'ha comprato, l'ha intestato al partito, ma in realtà nessuno gliel'ha chiesto. Vabbè, sono andato a Porto Cervo, ma ho ridato i soldi. Si fa una vacanza a Porto Cervo oppure si compra il SUV? Cosa che ho già dimostrato il contrario. Non è vero? Assolutamente no, ho dimostrato non è andato, ieri. No, assolutamente ce lo dica così. Assolutamente, non è andato io a Porto ieri, Cervo? No, assolutamente, sono andato per una errata valutazione economica, la mia carta di credito non aveva quella capienza, era subito dopo le elezioni, mi volevo riposare. Io ieri ho portato le carte ai magistrati che già nel bilancio dello scorso anno sono stati non solo restituiti quei soldi e rimessi a bilancio, e ho portato anche la giustificazione di come sono stati spesi. La Polverini non si dimette dunque e dice ho fatto un sondaggio tra gli anziani, senti questo. Inaugurando un reparto di geriatria all'ospedale Sant'Eugenio mi sono avvicinata a questi pazienti e scherzando ho fatto un sondaggio mio personale e non dico ovviamente l'esito, ma era più per giocare con loro ovviamente che per misurare che cosa in questo momento la gente pensa della nostra regione. Era un gioco al quale hanno partecipato malgrado molto anziani con grande entusiasmo. Poi a un certo punto Fiorito, torniamo a Fiorito, fa anche lo spaccone, eh? Guadagno 250.000 euro all'anno, anche di più. Francone Fiorito, ma tu ti rendi conto i soldi che entrano in mano ai partiti tutti? Oggi qualcuno fa un calcolo: 300 milioni all'anno, considerando il Parlamento, gli enti locali, 300 milioni all'anno. Bisogna affamare la bestia, togliere tutto subito. Vabbè, torniamo a Fiorito, va. Lei sta dicendo che gli aspettava esattamente quello che abbiamo utilizzato. 250.000 euro all'anno netti. No, se per questo di più. Quanto cavolo guadagnate? Questo è il problema che andrà posto e non è un problema mio. Ma come non è un problema tuo? Te lo sei posto adesso? Dice guadagna più del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio messi insieme. Dilla così, 30.000 euro al mese guadagna. Poi dice anche è vergognoso che guadagniamo tutti questi soldi, non ho rubato, vabbè, non ho rubato quello. Ma dove erano in tutti questi anni questi qui? Dove erano? Ma tutti, perché anche chi ha governato la regione precedentemente, evidentemente, cioè le regole che si è data, ma è possibile che ogni regione ha un cazzo di emolumento diverso dall'altro? È possibile che la regione Lazio i consiglieri guadagnano una cifra e quelli della Lombardia un altro e quelli della Campania un altro? È possibile? Vabbè, in teoria non è che tutti debbano essere uguali, dipende anche lì dalla cifra, naturalmente. È questo il federalismo che ti piace a te, vero? Vabbè, lascia perdere queste cose serie, il federalismo, le cose. Un attimo solo, Gasparri, Renzi, andiamo più in basso, eh. Renzi un piacione che va alle sfilate di moda, sapete che Renzi è andato da Armani, eccetera, eccetera. Vabbè, il problema è che siamo all'1.21 a parlare di quello che è andato alla sfilata, quello per quello c'è andato, così fanno la foto, lei la commenta, noi stiamo qui a parlare di un piacione senza un'idea che va alla sfilata di moda. Pensasse alle aziende tessili. Berlusconi ha detto che ha le vostre idee, quindi non... Ma secondo me Berlusconi è un generoso, quindi a volte dice barzellette. No, come lei dice che è senza idee, però mi colpiva idee. Questo fatto. No, ma le nostre sono migliori, cioè, è uno così che cerca di piacere a tutti. Vabbè, prima di presentarvi il primo ospite della serata, abbiamo anche un Emilio Fede sulle cene di Arcore ieri a Piazza Pulita. Non sopportavo la ripetitività di Apicella. Notizia scoop mondiale. Senti. L'unica cosa che posso dire, che posso confessare di diciamo così di indisponente in quelle cene di Arcore, lo dico magari ne subirò le conseguenze da qualche punto di vista, era la ripetitività di Apicella, sempre le stesse canzoni. Io comunque avverto che domani vado al supermercato, al contrario di Francone Fiorito. Qualcuno mi scrive, forse lui non va al supermercato perché non passa dai tornelli, cioè non passa dall'ingresso, quello dei supermercati. Però questa è una cosa un po' lombrosiana. 800 24 00 24. Nel frattempo, caro Parenzo, Minzolini potrebbe approdare a Mediaset, eh? Beh, ancora non c'è nulla di ufficiale, per la gioia dei suoi dirigenti, pare molto arrabbiati, perché Minzolini guadagna alla Rai uno stipendio da circa 550.000 euro l'anno. Ora, i dirigenti di Mediaset e altri sono un po' tagliati qualcosina nell'ultimo periodo, e molti non sono proprio contenti di tutto questo. Ma lasciamo perdere, tratteremo questa vicenda un'altra volta. E con noi andiamo in Sicilia. Stai zitto un attimo, andiamo in Sicilia. Sì, abbiamo uno dei candidati, dopo uno dei candidati alla presidenza della regione, Claudio Fava. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come sta? Come bravo, sta? Bravo Fava, bravo. Perché cominci subito a lisciare il pelo? Bravo, no, Fava, bravo. Che adesso, tu devi dire sempre la solita cosa, no. Se fossi in Sicilia voterei per Fava, dillo. No, ma sì, questo è sicuro. Questo cioè, più voteresti Fava e non Crocetta, tu voti a se sinistra, fossi, va bene, però... No, se fossi in Sicilia sì. Io voterei sicuramente per Fava, spero di non danneggiarlo per aver detto questo, ma voglio dire... No, io lo danneggerei, tu no, forse. Ecco, non lo so, però sicuramente sì, voterei Fava e non... Ma e non Crocetta, cioè Crocetta è troppo gagà per te, troppo così, no, troppo... Perché mi metti in bocca? Non sono mica la zanzara che mi devi mettere in bocca. Senta, Fava, no, potresti ecco. Essere... Una cosa, siccome, come si chiama, Miciche ha detto che l'aeroporto non va intitolato, vabbè, insomma la sala polemica, no? L'aeroporto di Palermo non va intitolato a Falcone Borsellino perché la mafia, uno arriva e dice sente questa cosa, questo nome ricorda la mafia, non va bene per l'immagine e per il marketing. È inutile che le chieda un commento su questo perché è scontato. Vogliamo raddoppiare, insomma, magari lei mi dice bisognerebbe intitolare, che ne so, l'aeroporto di Catania invece una vittima della mafia? Cioè, gli viene in mente qualche idea per, invece per, no, per aumentare gli aeroporti? Non dico il numero degli aeroporti, perché quelli sono e speriamo che non aumentino. A me, più che chiamarli aeroporti, per cambiare nome agli aeroporti, mi piacerebbe che funzionasse. Noi abbiamo un aeroporto a Comiso, peraltro è stato anche intitolato la persona degna, Viola Torre, che Comiso ha fatto una grande battaglia. Che ne so, l'aeroporto di Catania, civiltà. Lo vogliamo da Fontana Rossa, cambiamolo un po', a chi lo potremmo intitolare? Ma Vincenzo Bellini mi sembra un nome che è ben adatto. Ah, perché si chiama, Vincenzo Bellini. Bellini. Abbiamo avuto questo musicista, a morto giovane. Tutti lo conoscono. L'ha lasciato. Tutti Italia, la Norma, la Sonnambula. Ma poi sai, il problema è che l'aeroporto di Falcone e Borsellino, io sono uno dei tantissimi che non è che ricordi tanto il rumore dell'esplosione, la strada. Sì. Viene in mente il sorriso di questi due fotografati insieme, che sta sulle pareti di centinaia di ragazzi nelle loro camere, nelle questure, negli ospedali, nelle case. Quel sorriso è bello, è una cosa positiva. Beh, Amici che ha detto, è come se avesse detto, uno arriva e vede questo nome e porta quasi sfiga, è come se avesse detto questo. Non è stata una cosa di grande eleganza quella che ha detto Amici che, ma è sempre un po', diciamo, un po' originale nelle sue... Nelle sue opinioni, senta, diciamo che facciamo un gioco. Se mettiamo che lei non sia in competizione, no? Sì. Lei tra Musumeci, Crocetta e Michiche, chi voterebbe? Ma non le dico, mi asterrei, perché lo considero un dovere civile quello di votare, ma cercherei un altro candidato. Vabbè, però è troppo facile così fare. Certo. No, ma il problema è che sono loro. Cioè, pari sono per lei. A questo punto, sì, sono tre signori che hanno scelto di prendersi ciascuno un pezzo dell'anziano regime e metterselo alle spalle. Cioè, io ne so, tra Musumeci e Crocetta non sceglierebbe uno dei due? Ma Musumeci sta con Berlusconi, Crocetta sta con l'UDC e con un pezzo del Partito Lombardo, Amici che... Sono pari. No, vogliono conservare ciò che è stata la regione siciliana fino adesso. Vabbè, ma d'accordo, questo l'ho capito, ma se lei fosse costretto a scegliere tra uno dei tre, chi sceglierebbe? Crocetta. No, forse no. No, assolutamente no. Musumeci. Ma nemmeno, non credo di dovermi trovare in una posizione. Mi sarei davvero costretto a una scheda bianca. Scheda bianca, è una risposta. Scheda bianca. Ma il problema non è che c'è, il problema è che ci sono anche altri candidati. No, beh, questo lo so, era un gioco sin dall'inizio. Lei è a favore dell'adozione da parte degli omosessuali? Sì. Assolutamente sì, eh? Ma sì, no, Amici, non italiani naturalmente... coppie omosessuali che hanno adottato, mi sembra che siano famiglie felici. Poi la felicità di un bambino dipende da molte cose che vanno ben oltre il fatto che le coppie siano eterosessuali. C'è una qualità di sentimenti che non chiede permesso al fatto che siano due uomini o due donne. Giusto, caro Parenzo. Beh, io è la mia stessa posizione. Vedi come va la vita? La felicità di un bambino non è che dipende per forza dal fatto che ci sia una coppia di eterosessuali. Se sono due eterosessuali criminali, per esempio. Espresso qualche perplessità, ma non c'entra nulla. Però volevo chiedere invece a Fava se è possibile un'altra cosa. Cosa? Cioè, sulla addirittura morale dei candidati nel combattere la mafia, lei non ha dubbio alcuno. No, ma come la fava? Cioè, che vuol dire? Che vuol dire? Voglio dire, lei metterebbe la mano. Addirittura morale, ma nessun problema. Il problema è che il punto è che non basta l'addirittura morale. Se noi siamo convinti che rimettiamo in sesto una terra come la Sicilia perché facciamo tintinnare le medagliette dell'antimafia. Ma la mano sul fuoco ce la mette per tutti o no? Questo è il per i suoi avversari, per i suoi avversari. Questo è il tema, sì, questo. La mano sul fuoco per questi avversari la metto. Poi cioè c'è il pericolo di infiltrazione della mafia. Non la metto su quelli che si stanno, come dire, li accompagneranno in questo giro di valse. Cioè? Sento dire a Musumeci, che persona per bene, che si farà il pane con la farina che si ha, e mi rendo conto che le sue liste avranno anche un po' di farina variata e rischieranno di avere pane marcio, e questo accadrà anche nelle altre liste. Ma cioè ci saranno infiltrazioni mafiose in queste liste? Questo sta dicendo, sì. infiltrazioni mafiose è, come dire, è già una connotazione criminale giudiziaria. Io penso che quando la farina è in marcia non necessariamente deve avere un mafioso in lista. Ci sono tanti modi per essere, per ammiccare, per essere opachi, ambigui. Senta, a proposito della vicenda, far parte di cosa nostra. No, per, a proposito di nuovo della vicenda gay, secondo lei non va fatto un grande slogan: la Sicilia deve essere gay friendly? Bello. Le do un suggerimento. Una bella cosa così, un bella, trasformerò la Sicilia, se vinco, in una terra gay friendly. Avremo l'anno prossimo il Gay Pride a Palermo, sembra un momento di civiltà e anche di responsabilità. Per esempio, credo che un presidente della regione che non ha potestà legislativa su questo, ma sì, prevedere delle politiche sociali per le coppie omosessuali, fare in modo che il diritto alla casa, il diritto ad altre forme di assistenza sociale non preveda pellegrinaggi o delle censure preventive perché sono coppie non, come dire, catechizzate secondo le forme di Santa Romana Chiesa. Ma cioè, lei vorrebbe fare una specie di registro delle coppie omosessuali in regione, una cosa di questo tipo, se ci si può inventare? Un registro si può fare, non solo inventare. Il problema è che questo registro, che in sé può dire poco, se poi serve anche diritti, a costruire politiche diritti, sociali, che sì, ho capito. Sociali, che sono quelli che mancano in Sicilia, mancano per le coppie omosessuali, per le coppie eterosessuali, mancano per le donne. Il 30% delle signore che fanno il primo figlio lasciano il lavoro in Sicilia, sono percentuali da Togo, da Bahrain. Sento una cosa, ma per esempio, lei si è mai fatto le canne? Sì. Tanti anni fa, finalmente. Ma non è una notizia questa. No, vabbè, ma è una curiosità. Ma io non è che è una mia curiosità. Cioè, se le faceva da ragazzo, insomma, se le faceva. Ma raramente, nel senso che poi non. E preferivo, diciamo, l'ebbrezza di una bottiglia di rapitalà ben fredda, era più. Ma più quando piacevole. Ha smesso? Ma diciamo. Hashish o marijuana? Erba. Ma fino a che età? Poche unità, qualche canna. Ma fino a che età? 23-24 anni. Fino a 23-24 anni. Poi accadono cose alla vita, ti arrivano i figli. Ma è ubriacarsi e farci una canna, alla fine forse è più pericoloso ubriacarsi in alcuni casi. Assolutamente sì. Sento una cosa, farsi una canna insieme diventa anche un po' devastante. No, certo. Cioè, lei non lo condannerebbe un ragazzo di oggi che si fa una canna, insomma. Mi sembra... No, ovviamente no. Sento una cosa, ma lei la legalizzerebbe la droga leggera? Sì. Assolutamente, eh? Sì. Magari pure da presidente della regione, un bel provvedimento se si potesse fare, Sì, credo che me lo impugnerebbero, ma si potrebbe provare a fare. Quindi lo farebbe. Cioè, la Sicilia come Amsterdam di una volta, perché là, sorry, si potrebbe dire una cosa del genere, o no? Bellissimo. La Sicilia è già come Amsterdam in altro modo, nel senso che ciò che lì si vende a cielo aperto, Sicilia si vende a cielo coperto e diventa bottino di guerra dei racket mafiosi. Per cui non sono le canne il problema in Sicilia, no, certo. Sono le tonnellate di roba che la gente non c'è dubbio. Compra. Senta, ma anche lei rinuncerebbe al sesso come crocetta? No. Assolutamente no. No, perché penso o nella politica, se non c'è la vita, vuol dire che stai dentro un acquario, e quando stai dentro un acquario le cose le vedi sempre un po' deformate. Noi andiamo dritto al sodo. Senza sapore. Ecco, bravo, se non si fa, insomma, se non si tromba, caro Fava, ogni tanto, non è che uno, per carità, se uno non ha una vita sessuale, adesso cambio un po' modo di parlare. Sì. Se uno non ha una vita sessuale un po', come normale, dire, normale, non può fare il presidente della Regione Sicilia, diciamo la verità. Sì. È un mestiere normale anche quello, se tu non porti qualche punta di passione, ma anche di normalità. Sì, se non sei sereno con te stesso, no? Se non... Una roba da... Certo. Vabbè. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte. Abbiamo capito tutto ieri sera, eh? Abbiamo capito che il Senato, a un certo punto, il Senato della Repubblica, cari ascoltatori della Zanzara, la massima, una delle massime istituzioni dello Stato, è stata abbandonata perché c'era una signora che si chiama Rosy Mauro che doveva per forza prendere un aereo a un orario prefissato e c'era un altro signore che si chiama Nania, il quale era sempre vicepresidente del Senato in ritardo sul suo aereo, e per questo c'è stata la sospensione della seduta. Ora uno potrebbe dire chi se ne frega di una seduta del Senato, però ecco la coincidenza di queste due cose, un ritardo da una parte e un'altra che deve andare per forza a prendere un aereo a quell'orario, la dicono lunga. Ecco, colleghi, sono costretta a sospendere momentaneamente la seduta in attesa che arrivi il vicepresidente di turno, perché ho degli impegni anch'io purtroppo, era previsto per le 11.45, sospendo momentaneamente la seduta. Eh sì. Ma non è un negozio. Sì, sì, ma l'abbiamo capito, non è un negozio, certo che non è un negozio, è proprio di questo che stiamo parlando. I titoli del TG3. Ma ero assente. Eri assente, sì, l'ho capito. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Il Consiglio regionale del Lazio vota i tagli, la Polverini, obiettivo centrato, c'è un danno d'immagine, ma vale la pena andare avanti. L'ex tesoriere Fiorito nega di aver citato Renata Polverini, ma parla di una lettera inviata a luglio al governatore in cui la informava di un sistema insostenibile. Dopo il Lazio, la finanza anche alla Regione Campania, si indaga su 6 milioni di euro destinati ai gruppi regionali, ma finiti ai singoli consiglieri. Vendola, la festa ai TV, alleato col PD, si ribalta l'agenda Monti, Di Pietro resto affezionato alla foto di Vasto, meglio Bersani di Renzi. Bruxelles all'Italia, bene la riduzione del deficit, nonostante la crisi, avanti con le riforme, crescita Monti ottimista, Squinzi frena. Alla vigilia dell'incontro con il governo, Marchionne chiede per la Fiat aiuti come quelli ottenuti in Brasile, i timori dei lavoratori di Pomigliano. In India il governo approva le riforme a favore dei grandi megastore stranieri, le borse esultano, la piazza insorge, grida, è la fine per milioni di piccoli commercianti. Cala. Tu sei come una piccola zanzara. Alcune frasi che stanno facendo discutere il mondo della politica, pronunciate proprio qui alla Zanzara, caro Parenzo. Iniziamo dal senatore Marcello Dell'Utri. Vogliamo farvi riascoltare che cosa il mitico Dell'Utri ha detto, che insomma Renzi lo voterebbe. Che Renzi, se non ci fosse Berlusconi, eh. Vabbè, davanti a dire. Non si sente. Parla meglio, non si sente. Dell'Utri. Io lo voterei, sì, assolutamente. Ma mi sembra una persona per bene, bravo, giovane, ben animato, e in assoluta intenzione positiva delle cose, ma era ad avercene, scusi, di politici così. Onesto sicuramente, dico ad avercene persone così. Beh, poi la grande rivelazione, eh? Ho la prostata ingrossata. Non sarà nel primo e nell'ultimo. Non si sente, vuoi parlare meglio? Ma guarda che mi devo incazzare questa sera come una bestia. Non si sente, cavolo. Ma se ho telefonico. Ho capito, non si sente, figlio mio. Prostata ingrossata. Sono andato a fare una visita l'altro giorno, un check-up, e mi hanno riscontrato la prostata ingrossata rispetto all'ultimo esame. E il medico gli ha detto, ma perché, come è successo? E dice, che vuole, con tutta la rottura di coglioni che ne fanno, è il minimo che possa succedere. Allora, facciamo una prova. Si sente o non si sente? Prova il microfono. Adesso, meglio. Prostata. Prostata Dell'Utri, prova, sta. Non è un, cioè, la domanda è questa: con lo stress, con le rotture di balle, con le inchieste, ti si può ingrossare la prostata? I grandi temi della Zanzara. Ma che sta facendo nel frattempo? Cosa stai facendo? Sesso in macchina? Cosa stai facendo? Ma che sesso in macchina? Ma che stai facendo? Cioè, stai calmo e chiude. Titoli del TG3, su, fatemi sentire. L'abbiamo già sentito, i titoli del TG3. Vado ai matti ora, vado al manicomio. Fatemi sentire il litigio tra il sindaco di Mira del Partito Democratico, Caimi, e la Mussolini, va. Ci ha messo in queste condizioni che adesso arriva con la nave a dirci che ci toglie pure l'IMU. Ma allora, ho questo. No, ma un momento, fatemi parlare. Allora, Allora, diciamocelo chiaro, o questo ha seri problemi di salute. Questo si no? chiama il presidente, ecco. Silvio Berlusconi. Allora, stai zitta per piacere, che c'hai No. Tu sei come una piccola zanzara. Ancora Caini, Mussolini, su. No, quando tenga... parlo io, no. Tu stai zitto, no, no. Perché io sono stato zitto quando parlavi questo te, chiaro? Non c'è. A me non me ne importa niente che tu sia onorevole, che sia figlio o nipote di qualcuno. Proprio non me ne frega un'emerita mazza di niente. Vabbè. Va bene, ascoltatori, allora. Va Angelo da Bari, 800 24 00 24. Buonasera, Cruciani. Dica, Angelo, dica. Allora, due cose veloci, Cruciani, se me le fa dire. Una è per il fatto di ieri, quando ha chiamato l'onorevole, il senatore Dell'Utri. Sì, non è che ha chiamato, allora, lui, abbiamo chiamato noi. Sì. Avete chiamato voi, chi ha chiamato. Allora, quando la gente la chiama giullare, sì. La gente a volte non capisce perché una cosa è parlare con Scilipoti, una cosa parlare con Dell'Utri. Dell'Utri, se non stai attento a quello che dici, l'indomani ti ritrovi in una casa popolare, non nella casa. Angelo, lei ha qualche problema? No, io ti sto dicendo quello che penso. Ma che significa che l'indomani ti ritrovi in una casa popolare? Cosa vuol dire? Perché Dell'Utri, il capo mafia. Il capo mafia, benissimo. Dell'Utri, un mafioso. Ascolta, fammelo dire. Sì, l'ha detto, l'ha detto. Più di questo cosa vuole dire? È dato il mafioso, lei, Dell'Utri, va benissimo. Sì, lei è bravo a fare il conduttore, io sono bravo a vedere, a fare la radiografia della gente. Ma che bravo a fare la radiografia della gente? Te lo dico io, perché come parla Dell'Utri, ma in che paese del mondo uno decide di diventare senatore e diventa senatore? Sì. Solamente in Italia. E lo dice, io sono Parenzo, digli qualcosa tu, dai. Ma che vuol dire Parenzo? Chiama l'ambulanza, quello sa dire Parenzo. Ora mando l'ambulanza. Mandami un'ambulanza, Parenzo. Che deve dire? È la verità questa. Allora, è quello che passa dalla radio. Quando voi parlate, la gente dice che siete giullari. E quello, purtroppo, è questo passa dalla radio. Che poi voi avete le vostre ragioni, è un'altra cosa. Però dalla radio questo passa. Va bene, Angelo, grazie. Luca da Milano. Buonasera. Dica. Intanto le faccio velocemente i complimenti, anche se lei è allergico, perché la sua trasmissione è geniale. Chiusi i complimenti. Sì. Volevo ritornare sulla telefonata di ieri sul presunto vincitore del reality di Briatore. Sì. Oggi i giornali dicono Gero La Zanzara ha rivelato il vincitore, ma il vero mistero è un altro. Sì. Cioè, la telefonata è andata in onda ieri sera, l'ho sentita, come tutte le sere, alle 19:28. Sì. Io sono un suo collega e alle 18:50 di ieri è arrivato un comunicato stampa di una ADN Kronos con i dettagli della telefonata. Certo. Come poteva l'ADN Kronos avere i dettagli della telefonata andati in onda alla Zanzara 40 minuti prima che andasse in onda? Ma non c'è nessun mistero, Luca, cioè, è una cosa molto semplice. Una curiosità, ma guardi che l'ho spiegato anche ieri in diretta, forse lei non ha seguito tutta la trasmissione, questa è naturalmente una colpa molto grave. È molto semplice la cosa, la telefonata in realtà era arrivata il giorno prima, io poi questa persona l'ho risentita lo stesso giorno, mi ha detto il contenuto di quella della telefonata che voleva fare brevemente, poi ha aggiunto delle cose quando è intervenuto in diretta, e dunque noi abbiamo fatto un lancio d'agenzia poco prima di telefonare, perché altrimenti era 19:15, 19:20 era troppo tardi. Di solito lei quando fa risentire le cose, ma non è importante, non è importante, non gliene frega niente a nessuno di questa cosa, non gliene frega nulla a nessuno. Va bene, Parenzo c'è? Non c'è. Pino da Roma. Dottor Cruciani, buonasera. Sì, dica. Dunque, io ho saputo ieri che la governatrice del Lazio non sa quanto costa il consiglio che lei presiede ai cittadini del Lazio, non sa nemmeno quello che ha speso nella campagna elettorale. Allora io mi sono permesso di riscrivere l'articolo 1 della Costituzione italiana, se vuole glielo leggo. Vada. L'Italia è una repubblica partitocratica fondata sul lavoro senza tregua di delinquenti e puttane. La sovranità appartiene al popolo che votando si articola in tre categorie. Gli imbecilli che andando a votare non sanno di danneggiare se stessi e il loro paese, i complici che vanno a votare perché sanno poi... che una parte pur minima del bottino andrà anche a loro, e gli opportunisti che vanno a votare per mantenere i privilegi che anche loro hanno. Vabbè, mi sembra troppo impegnativo. Mi sembra troppo impegnativo riscrivere questo articolo 1 della Costituzione. Basta lasciarlo così, non c'è problema, Pino. È davvero troppo impegnativo. Andiamo a Roma, Stefano. Buonasera. Davide, ci buonasera. Sei o no? Sì, è amico mio, però ti devi decidere, o fai la trasmissione o viaggi, perché io non è che mi posso rompere la testa tutta la sera qua, lo dico agli ascoltatori apertamente, cioè è la 20ª volta che cade la linea, ma di che stiamo parlando? Su, fatemi quella telefonata che dobbiamo fare. Ho capito, adesso non ci mettiamo a discutere, fatemi quella telefonata che dobbiamo fare, su. Stefano, dica. Buonasera Cruciani. Vada. Io prima ho espresso un concetto, che è quello che dobbiamo fare attenzione a non creare altri poveri cristi. Cioè, noi in Italia abbiamo la tendenza a crocifiggere una persona, l'abbiamo fatto nella storia del calcio, l'abbiamo fatto... Un attimo solo Stefano. Davide, ci sei? Chi è questo? Don Mazzi. Ah, Don Antonio Mazzi, ok. Sarà impegnato a dir messa? No, non credo. Beh, intanto ti saluta Pino comunque. Sì, chi è Pino? Come chi è Pino? È il mitico Pino che mi sta portando. Vabbè, salutalo. Saluta. Sì, cerca di parlare bene, sennò non si capisce nulla. Vuoi che ti passi Pino? No, non me ne frega niente. Ma come ti permetti di fregare niente? Pino è un personaggio. No, ma l'abbraccio fortissimo, però in questo momento non me ne frega niente, sono concentrato su altre cose. Sì. Va bene, chiamiamo più tardi. Stefano? Lo stavo dicendo. Sì. Il problema, secondo me, non dobbiamo commettere l'errore di crocifiggere una sola persona, come abbiamo sempre fatto nel calcio, nella religione, no? Noi siamo il popolo che basta che ne prendiamo uno. Vabbè, allora di chi sta parlando? Parlo, in questo parlo caso? Per esempio nel caso specifico di sera di Fiorillo, che io non conosco, Fiorito, non ho votato, Fiorito, chiedo scusa, che non conosco, non ho votato, sì. Però mi è sembrato un accanimento, no? Cioè in che senso un accanimento? Un accanimento contro di lui, è quello che noi abbiamo fatto anche nel calcio, no? Abbiamo trovato uno che ha il coraggio di dire le cose come stanno, cambiamole adesso, non ci accaniamo contro di lui, altrimenti tutti quelli che gli stanno intorno faranno quello che è successo anche in passato, punteranno il dito, noi ci incazzeremo tutti contro di lui e alla fine rimarrà sempre come sempre tutto rimasto nel calcio, nella politica. Lei dice che sta facendo da capro espiatorio, cioè non è l'unico colpevole, questo vuole dire? Perché nel caso per esempio della Tangentopoli del 92, lei non pensa che c'è stato anche lì un capro espiatorio? Gli altri dove stanno? Va bene, grazie Stefano. E con noi innanzitutto l'avvocato professore Carlo Taormina, buonasera. Buonasera. Come sta professore? Molto bene. Ieri l'ho vista porta a porta, però un po' troppo moscio, anzi praticamente non ha mai parlato, come mai? Abbiamo parlato l'essenziale abbiamo parlato. Il giusto. Accanto al professore avvocato Carlo Taormina c'è naturalmente il suo principale assistito in questi giorni, cioè a dire Franco Fiorito. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Bene. Beh, bene, adesso non è... Se lei sta bene è un fenomeno, se lei sta bene. Provato ma sereno. Senti, io voglio definire una volta per tutte questa questione di Batman. Lo so che è una stupidaggine. E del federale di Anagni. Mi dica la verità, sto Batman, ma chi se l'ha inventato? Non lo so, non sono ancora riuscito a capirlo. Lanceremo un concorso per trovare l'autore di questa fesseria. Scusi, ma non è vero, non è una, mi hanno raccontato che una volta lei era tenuto con le mani sopra una moto, però poi è caduto. Mi racconti questa cosa? No, io non esiste proprio il fatto, quindi c'è poco da raccontare. Cioè non anche esiste. Lo trovo anche simpatico, ma non esiste né il fatto né il soprannome. Cioè, in più, se vede, noi io sono Anagnino, quindi un ciotaro da questo punto di vista. Sì. Da noi R non si dice, quindi è qualche giornalista romano che ha voluto provare queste vite. Si dice You, questa è la verità. You Batman. Ma come l'hanno chiamata lei? Allora, non ha mai avuto... qualche soprannome relativo alle cariche politiche. Scherzando sul mio diciamo passato in Alleanza Nazionale, quello spesso è vero tra potestà federale, ma molto scherzoso, insomma, voglio dire, una cosa... Potestà federale. Lei è federale perché ero segretario provinciale del partito, e quindi diciamo scherzando rifacevano al termine del ventennio, e la stessa cosa per analogia da sindaco il potestà, però era veramente qualcosa di scherzoso. Senta Fiorito, ma lei è stato fascista all'epoca, no? Quando era ragazzo? Assolutamente è una vergogna, è una vergogna. E chi ha detto che è una vergogna, avvocato? È stato fascista. Può anche essere fascista. Assolutamente, perché un paese libero che non è l'Italia, si può fare. No, ma io proprio non mai faccio, nostalgico, non mai, mai. No, nostalgico, no. Mai, no, no, assolutamente mai. No, ho un mio giudizio, ma io sono nato nel 71, fare il fascista essendo nato nel 71 mi sembrava difficile, no, però mi sono iscritto al Fronte della Gioventù orgogliosamente, ho fatto una lunga militanza politica da quando avevo 14 anni e sono quasi 25 anni di militanza politica, ho fatto giovanissimo il segretario a 24 anni, ero segretario provinciale del mio partito che si trasformò da MSI ad Alleanza Nazionale. Senta Fiorito, ma una cosa, a 27 sono diventato sindaco, vabbè, adesso non è che ci può fare tutta la consigliere provinciale, poi a 33. Senta, io voglio capire una cosa, lei l'hanno espulso o no? Perché non si è capito bene, cioè Alfano l'ha cacciato, mi sono autosospeso, io sono Alfano ha detto l'abbiamo espulso, mi sembra di aver capito. Alfano credo conosca bene quanto me il regolamento, per essere espulsi dal partito ci vuole un procedimento, che si pronuncino i propri viri e ci vuole soprattutto una colpa. Io in questo momento sono indagato, certo, con una vicenda che provocavo clamore, ma non sono stato giudicato né rinviato ancora a giudizio, spero non lo sarò, ma decideranno. Dunque Alfano non mi può cacciare, Alfano non mi può cacciare dal partito. Diciamo che forse ci sono anche dei soggetti del partito che hanno, non parlo ovviamente del mio presidente Berlusconi, ma hanno forse pendenze più grandi della mia, ma non mi sembra che siano stati cacciati dal partito. Ma Berlusconi l'ha chiamata, Fiorito? Assolutamente no. L'ultima volta che ha sentito Berlusconi quando è stato? Se l'ha mai sentito? Una cena di consiglieri regionali, quindi non l'ho sentito recentemente. Ma guardi, con un linguaggio molto crudo, ma che lei capirà, chi è stato all'interno del suo partito il più stronzo nei suoi confronti? Beh, evidentemente il mio collega Battistoni. Vabbè, quello sì, avete avuto anche oggi una discussione, eccetera. Ma tra i nei vertici, a parte quelli, diciamo, i consiglieri regionali, gli altri suoi colleghi, chi è proprio stato quello che l'ha mortificata di più in queste ore? Ma mortificato, quello che si è resa più ridicola forse è un ex ministra che non supera il 1,40 m di altezza politica. Che è la Meloni, no? Non mi ricordo il nome. Come no, è la Meloni, su. Ma adesso la battuta su 1,41 m potrebbe fare la battuta pure sui suoi chili, assolutamente, infatti la fanno. Lei si è sentito un po' attaccato anche da questo punto di vista? Giovanni, sono abituato. Ma quanto pesa lei, Fiorito? Non lo so, però sicuramente più di 130 kg sicuramente. Più di 130, Fiorito? Ma non ho mai pensato di dimagrire? Sì. Ho pensato, ma il mio consulente per l'immagine me l'ha vietato. Ma come il suo consulente per l'immagine l'ha vietato? Sì, dice che grasso faccio più simpatia. Ma veramente? Adesso ma lei... sto pensando, la prendo in giro, lei prende in giro me, io prendo in giro lei. No, appunto, che ne so. Perché non vi fate i fatti vostri? Non ho capito. Vabbè, ma che dobbiamo fare? Sempre a farvi i fatti degli altri, uno può essere grasso, magro, fascista, comunista. Secondo voi non c'è una cosa che vada bene? No, ma scusi, avvocato, a parte che a noi ci va bene tutto, e poi scusi una cosa, ma dobbiamo fare sempre le solite domande che hanno fatto in questi due giorni tutti a Fiorito, cioè i soldi, le cose, sì. Quelle no, che ce ne frega dei soldi, ce ne frega niente. Scusi un attimo, Fiorito, ma la nuova capogruppo, per esempio, Colosimo, anche lei ha fatto fatture false, anche lei ha mangiato come gli altri? Oddio, a mangiare sicuramente hanno mangiato, perché ho visto qualche fattura di cene che superavano i 20.000 euro a cena, 10.000, 12.000, 22.000, quello... A mangiare hanno mangiato insieme a molti, ma in senso fisico, spero, non economico. No, ma la Colosimo è pulita? Oppure anche lei partecipava al magna magna della regione? Guardi, io mi sono imposto di non usare il metodo Battistoni con i colleghi, cioè quello dell'azione della spia. Ma l'ha già fatto? Io ho solo portato i rendiconti. Ma in alcuni... No, io ho chiesto di controllare alcune cose, solo per far vedere che, diciamo, chi accusa forse non aveva diritto di scagliare la prima pietra, e forse alla fine di questa vicenda risulterà che ero molto più regolare io e legittimo nelle mie spese che qualcun altro. A proposito di quella che lei ha chiamato un ex ministro alta 1,40 m, ma ha detto che voleva dare un bel calcio sugli stinchi, andrebbe preso a calcio sugli stinchi e cacciato via. Questo denti, ha detto sui denti e cacciato via. Sì. Avete fatto querela insieme all'avvocato Dormina? Certamente. Sì, sicuramente la faremo. La farete, Ma vabbè, non per i denti? Per lo schifo. La faremo, dice. Perché mi ha definito un ladro, io sono certo di non essere tale. Ma lei vuole continuare a fare politica, Fiorito? Io sto esattamente facendo politica. No, ma lei vuole continuare momento, dopo questa vicenda, vuole continuare ancora a fare? Sì, io ritengo che uscirò pulito da questa vicenda e che anzi qualcuno mi dovrà chiedere scusa. Addirittura? Certo. No, per carità, ma è ognuno finché non è... per esempio, si scoprirà che io sono un gestore di un patrimonio ingente che di certo non è spiegabile facilmente alle persone, che oggi genera ovviamente l'irritazione di tutti, ma che non ho mai, almeno in buona fede, compiuto atti illegittimi, ho agito all'interno della legge e che non mi sono appropriato in nessun modo di soldi pubblici né del partito. Lei non, non ha mai preso per sé un euro di soldi pubblici per i suoi usi personali, mai? Assolutamente no. Le cene sono tutte per, le cene, per esempio, sono tutte per attività politica. Ma guardi, le cene, lei diciamo vedrà che le cene sono di tutti tranne che le mie. Perché lei si confonde, non lei, si confonde tutti pensando che io gestivo i soldi solo per me. Io ho gestito per 17 persone. Certo. E quando sono usciti sui giornali, segnalate da me, tra l'altro per far capire il ridicolo in cui stavamo cadendo, e segnalate da me con una lettera ufficiale del 18 di luglio che ho dato anche ieri in trasmissione a Rai 1, a Vespa, e a quel punto, se lei fa il calcolo, il 18 io segnalo che facciamo delle spese da pazzi, il 24 mi cacciano. Questa è la consecutio tempo. Scusi un attimo, però la Polverini, la cosa della Polverini ancora non è chiara. Lei prima dice che sapeva tutto, che era al corrente delle spese del gruppo. No, io non l'ho mai detto questo. Questo non l'ha mai detto. Mi hanno attribuito l'agenzia filtrandola da eventuali notizie dell'interrogatorio. Non, diciamo, non va bene, lei alla corrente. È possibile che io abbia detto. Benissimo, ma sapeva o non sapeva di queste spese del gruppo? Io di certo non ne ha parlato con me, io credo proprio di no. Ma poteva non sapere di queste spese, di come veniva gestito il gruppo? Le spese, guardi, non le sapevo neanche io fino a un certo punto, perché diciamo i consiglieri gestivano delle cifre in loro autonomia e sotto la loro responsabilità. Poi erano tutte accentrate nella stessa gestione contabile, però le assicuro che alcune cose le ho scoperte io quando ho deciso di controllare determinati conti, tra cui le ostriche, le cravatte o cose del genere, insomma. Quante persone hanno fatto fatturazioni false? Un numero di persone? Non parlo di fatturazioni false. Io l'ha detto il suo avvocato che hanno fatto fatturazioni false, gliel'avrà detto lei. Il mio avvocato però ha più nozioni giuridiche di me. Io ho detto che alcune fatturazioni mi sembrano esagerate. Se uno paga per tipo 24.000 euro a Rieti per una manifestazione che si è svolta all'interno del comune e è costata pochissimo, mi sembra esagerata la cifra rispetto a quello. Se uno paga 7.000 euro una cena per 100 persone, che già mi sembra tanto, a 70 euro a persona, in un locale che poi si apre il sito e si scopre che c'è 40 posti e fai la fattura per 100, 120, vabbè, si chiama fatturazione falsa. Io non lo so, però ora hanno messo in doppia fila. Voglio precisare, noi abbiamo chiesto all'autorità giudiziaria che sta procedendo di accertare se determinate pezze giustificative che abbiamo consegnato alla stessa autorità siano o meno fatturazioni per le operazioni esistenti. Non abbiamo detto queste sono fatture false. Vabbè, lei un po' l'ha detto. Accertate se sono false. No, ma una cosa è la convinzione, una cosa è quello che abbiamo detto ai magistrati. Certo, è chiaro. Lei è convinto che ci siano state fatturazioni false, Fiorito? Sì. Lo lascio verificare a chi è più bravo di me. Scusi, ma qualcuno ha detto che molti consiglieri andavano pure a puttane, cioè il suo avvocato, è vero o no, Fiorito? Oddio, no, questo non è qui il mio avvocato, risponderà lui, io di certo non l'ho detto. Scusi, perché per fare politica andate a... Io impazzisco per questa cosa, perché andate a cena? Divento pazzo. Perché ci sono troppe cene, che cos'è, una copertura per dare soldi a qualcuno, per spenderli? Non lo so, perché andate a cena per fare politica? Guardi, io vado ai matti. Guardi, questo non lo so perché non è un mio costume, io... tra le fatture che sono state rinvenute non c'è una cena. Ma come no? Ieri Bekis ha parlato di cena, di cene anche al covo del brigante, allo schiaffo di Anagni, eccetera. Anche quella. Ho capito, ma non sono cene da 20.000 euro. Sarà stata una cena istituzionale quando è venuto qualche assessore, qualcuno per 120 euro, 100 euro. Insomma, quella si tratta di un. È indimostrabile tanto. Cosa è indimostrabile? Che è attività politica, dici? No, perché uno può, giustamente il Fiorito dice: è venuto l'assessore Bobù e l'ho invitato a cena, e tanto se lo autocertifica chi c'è, se vabbè, io invito Bonfani, è una bellissima... No, ma ho capito. Ma però scusi, Bekis, ieri io non politica, so, scusate, ho molta stima di Bekis, ma alla fine mi ha accusato per una spesa di 81 euro su al supermercato, che di certo non avrò fatto io, qualche segretario avrà comprato qualcosa che non so nemmeno. Ma perché lei non va al supermercato? Ah, l'ho detto per esagerazione, ci vado quando posso, ma in genere la spesa, diciamo, vado da mia madre ancora, oppure la fa la fidanzata. Ancora lei va ancora a mangiare la sua madre? Io vivo da solo quando dei giorni la vado a trovare, sto da lei a mangiare, altrimenti ci pensa la mia fidanzata, la mia famiglia. Questa... Allora, 30 secondi, torniamo subito. 800 24 00 24. Lei è disposta a rinunciare al vitalizio come gesto simbolico? No, manco per niente, naturalmente. Perché io sono quello che ha fatto la legge per abolirli. Ma lei vuole questo rinunci... però non lo scrive nessuno. Ma lei vuole, ha intenzione di rinunciare a questo vitalizio? Lei l'aspetta un vitalizio? Lei ha seguito il discorso della Polverini? Più o meno, adesso. Cioè... A un certo punto lei ha detto: possiamo riaprire la norma perché si possa rinunciare al vitalizio. Beh, quell'emendamento è scritto e inventato dal sottoscritto. Vabbè, lei vuole rinunciare al suo vitalizio o no? Vuole rinunciare al suo vitalizio, non nel futuro, per quello che ha preso fino adesso. Vuole rinunciare oppure è un suo diritto al vitalizio? Io credo di aver meritato almeno l'attività politica normale. Come diceva il mio avvocato, sono disposto a rinunciare se si riconosce che alcune cifre sono state mal gestite o fatte o in qualche modo. Beh, se non lo sa lei, se non lo sa lei, se sono... rinunciare a quelle. Se non lo sa lei, se sono... Guardi, lei avrà commesso un errore, Fiorito, un errore, una cifra gestita male. Più di uno. Quello più grave qual è? È aver dato troppi soldi ai consiglieri. È un altro suo personale, un suo errore. È un altro mio pensare che fare le cose in trasparenza, cioè bonificare con una legge regionale. No, ma il suo errore sui soldi che lei ha gestito per se stesso, qualche cosa. Una vacanza, sì. No, guardi, la vacanza io colgo l'occasione per chiarire che noi i soldi sono stati restituiti e messi a bilancio già dal 2011, quindi diciamo l'abbiamo chiarito. Vabbè, un errore l'avrà fatto, un 100 euro, sì, 200 euro, 1000 euro. No, la macchina che avevo preso in affitto era troppo grande. Il SUV, quello là, che era? Sì. Il BMW, esatto. Che era? Il BMW. Esatto. Era troppo grande, cioè non lo sapeva nessuno al gruppo, lei l'ha presa ma non lo sapeva nessuno, o sbaglio? Beh, non lo so, io non metto i manifesti, però era in dotazione a me, quindi... Che non lo sapesse nessuno, non è vero, molti colleghi sono venuti anche a manifestazione. E perché si è preso il SUV in dotazione? Gli serviva il SUV così grande? Perché ho esagerato e lì ho sbagliato. Ho esagerato. Siamo qui 800 24 00 24 con Franco Fiorito, consigliere regionale nel Lazio, ex capogruppo del PDL, al centro di questo grande scandalo. Il suo avvocato, l'avvocato Carlo Taormina, ha detto che Alfano non ha il diritto di cacciarlo dal PDL, che vuole continuare a fare politica e tante altre cose. Parenzo, ci sei o no? Certo che ci sono, infatti volevo chiedere al professor Taormina una cosa precisa. Cioè cosa? Cioè, il professore si rende conto che questa inchiesta sta completamente scardinando il PDL dalle fondamenta, professore? Questo è il dato. Vabbè, che è una domanda. Guardi, questa. Intanto si... Sarà contento? No, a parte beh, questo... un po' è contento. No, non è che sono contento. Credo che si sia giunti finalmente al Red Rationem, però il problema è che è un errore calibrare tutto sul PDL. Perché la condizione di questo partito per queste vicende regionali è generalizzata a tutti gli altri partiti. Noi infatti pretendiamo non soltanto che i veri centri che hanno determinato questo degrado siano colpiti e sono in particolare per l'ufficio di presidenza. Scusi un attimo solo, avvocato Fiorito. Scusi un attimo, Fiorito, ma i soldi negli altri gruppi venivano gestiti più o meno allo stesso modo? Non amo interrompere l'avvocato, gli chiedo scusa. No, ma lo interrompo io, non si preoccupi, è una dimestica. Sì. Io ho una conoscenza, sto facendo un altro ragionamento. No, ma ho capito, però volevo andare su. Vabbè, allora non mi chiamate, scusate. No, avvocato, allora che ragionamento? Qual era il ragionamento, avvocato? Scusi. Il ragionamento era semplicissimo. Il punto fondamentale è la l'erogazione dei soldi ai gruppi consiliari. Non è che i soldi venivano erogati solo al PDL, ma a tutti gli altri partiti. Sì. E questa erogazione è in partenza illegittima. Capito? Sì, no, ma questo l'abbiamo già detto una volta con lei qui. Ma se l'abbiamo detto, io ripeto adesso che me l'avete consentito di ma dire. È vero Fiorito che lei prima di questo scandalo era molto vicino al presidente Polverini? Sono sempre stato molto vicino al presidente Polverini, l'ho sostenuta con quasi 30.000 voti. No, ma all'inizio, ma nei vari giochi di potere della regione Lazio, lei era molto vicino al presidente della regione. Guardi, noi abbiamo avuto un periodo di grande crisi quando il PDL non presentò la lista, quindi ci fu una grande battaglia insieme. L'inizio della legislatura con la Polverini fu un po' problematico perché non avemmo. Poi il rapporto è stato sicuramente ottimo. Ma non sarebbe meglio andare tutti a casa e tornare al voto? Scusi. Ecco, non sarebbe meglio chiudere la legislatura? O no? Sì, non lo dico a me. Io, diciamo, nella mia vita ho sempre concorso, ho sempre vinto le elezioni, ho sempre aumentato i voti, quindi di tutto. Quindi, ho paura nella mia vita tranne del voto, poi dipende da altri 70 colleghi. No, ma tu, fa bene la Polverini a restare oppure no? No, secondo me fa bene. Fa bene. Senti, fa bene perché sarebbe un atto di responsabilità a fronte di vicende che vanno sicuramente chiarite, ma non è che ne debbano avere colpa poi i cittadini che si debbano trovare senza un governo della regione. In questo momento difficile credo che sia ancora peggio. Senta una cosa, ma è vero o no che quella festa de Romanis, come dice la famosa festa in costume romano, l'ha pagata lui? No, non lo so, io ho dato sicuramente dei contributi, solo che la verità è che non ti è fatta a Cinecittà, perché quello era un preventivo. No, la festa quella che dunque abbiamo visto le immagini, la festa io quella in costume romano. Io ho segnalato anche quello, quindi appunto. È la verità. Cioè, però De Romanis il giorno prima aveva detto anche al consiglio regionale lui la festa non l'aveva mai fatta, quindi vi lascio trarre la logica. Cioè, non è vero che l'ha pagata con i soldi suoi, lei dice, quella festa. Io lì non so quanto l'abbia pagata completamente, sicuramente ha ricevuto alcune contribuzioni con delle associazioni culturali con cui ha finanziato anche quel tipo di attività. No, ma scusi, quanti soldi ha dato lei a De Romanis in tutto? Quanto? Nei due anni circa oltre 200.000 euro. Nei due anni. Per cosa? Per fare cosa? Beh, per l'attività politica in teoria. Quasi, l'attività politica però. Ricordo che almeno 100.000 euro tutti alla stessa associazione culturale dei giovani del BBE, che poi in realtà era un'associazione culturale di Roma. Ma non sarebbe il caso di togliere, di cancellare tutti questi soldi che vengono dati? L'abbiamo fatto stamattina. Lo so. Oggi sì, il consiglio regionale ha cancellato tutti questi soldi. Ho capito, un po' troppo tardi. Lo so, però guardi, non l'ho fatta io questa legge. Ho agito nell'ambito della legge, diciamo, mi prenderò colpe mie se ne ho, ma quelle degli altri vi prego in questo momento. Ma ha paura di finire in galera, Fiorito? Ha paura di finire in galera? Non ho paura di finire in galera, sono rispettosissimo dei magistrati, credo che indagheranno a fondo, credo che si chiarirà ogni aspetto di questa posizione, almeno io ho lavorato per quello. Guarda, io ho portato insieme all'avvocato Dormina un rendiconto completo per le tre legislature, per le tre annualità, che è di circa 5.900.000 euro. Ma c'è una cosa che uno dice, mi sento, per questa cosa che ho fatto mi sento uno stronzo, a parte la questione della macchina eccetera, ho proprio fatto una stronzata, qual è proprio, mi sento uno stronzo per una cosa che ha fatto alla regione? No. Pensare per un lungo periodo che Battistoni fosse una persona affidabile. La ringrazio avvocato, un abbraccio avvocato, a presto. A presto avvocato, pubblicità. Grazie. Volta non mi chiamate però. No, è avvocato, lo sai i tempi di questa trasmissione, la chiamiamo sempre. Ma voi avreste avuto più tempo a disposizione con l'onorevole Fiorito se non mi aveste per nulla chiamato, che sarebbe stato molto meglio e più elegante. Vabbè, avvocato, non si arrabbi. Fiorito, un abbraccio, arrivederci, un abbraccio, un po' impegnativo l'abbraccio. La Zanzara. Eccoci qui, 800-24-00-24, David! Eccolo! L'avvocato è arrabbiatissimo, l'avvocato di Carlo Taormina. Mi hai fatto arrabbiare Taormina, denunzierà tutta la Zanzara ora, scusa. Ho capito, voleva fare lo show. Com'è Taormina? Aspetta un attimo. Ma fanno schifo. Hai capito, sì? Voleva spiegarti la linea difensiva, scusa. Sì, ho capito, d'accordo, ma avremo occasione. Cioè, guardi, noi diciamo questo ai nostri ascoltatori, seguiremo passo dopo passo la linea difensiva dell'avvocato Taormina. Va bene, Claudio da Pisa, buonasera. Annuncio che Parenzo è in viaggio verso Vasto, sta andando. Ma ora mi senti bene, immagino. Sì, ti sento, so ma bene. Ma vuoi salutare Pino ora che sei più caldo? No, non la voglio salutare. Sentirti bene è una parola, una frase un po' eccessiva. Perché mi stai facendo uno sgarbo a Pino e anche a Max. No, io l'abbraccio fortissimo, anche Max va benissimo, sono due persone straordinarie, due professionisti meravigliosi. Fammi un saluto, adesso. Fammi un attimo andare avanti, un secondo. Dopo questa battaglia con il signor Fiorito. Claudio da Pisa, buonasera. Allora, Claudio. Sì, buonasera. Vada. Ho sentito prima parlavate con Fava circa le adozioni delle coppie. Signor Fava, sì, signor Fava. Sì. Ora ho detto Fava perché non sapevo se era ancora onorevole. Pino. O come. Pino, buonasera. Pino, che c'è? Scusami, ti ha passato il telefono come al solito quel cretino. Ma che fai Pino nella vita, scusa? Comunque non stavamo facendo sesso, eh? No, ma lo so, come adesso volevi rassicurare la tua fidanzata, la tua moglie, qualcuno? No, saluto i miei figli. I tuoi figli, vabbè, ma non è una cosa grave se stai facendo sesso con Parenzo, non è una cosa gravissima. Cioè, non è una cosa per cui devi essere condannato a rogo, come qualcuno vorrebbe, no? No, no, è tranquillo, te lo ripasso. Ciao Pino, ma tu che fai di mestiere, Pino? L'autista a noleggio. L'autista a noleggio, eh? Mamma mia, che privilegi, Parenzo. La 7 c'ha un sacco di soldi, una cosa vergognosa. Sì, sì. Macchine che scarrozzano Parenzo in tutta Italia, una cosa proprio da vergognarsi come ladri. No, meglio per voi così lavorate, eh. Però quello è un va bene, è un ripasso. Piacere lavorare per lui. Mi ripassi Parenzo, su. Sì. David? Pronto. Eccomi qua. Adesso questa cosa qui farà il paio con i fornacci, capito? Beh, ho capito, sei scarrozzato la mattina e la sera dagli autisti della 7 in tutta Italia. Ma adesso, ecco, immaginavo che dicessi la stronzata. Tu con l'autista e gli operai a combattere per il posto di lavoro, questa è la realtà. La realtà è questa: Parenzo, il grande difensore degli operai, dell'Alcoa, eccetera, eccetera, allora, sta con l'autista. Allora, come no? È così, sei con l'autista. Vai, abbi il coraggio di arrivare con l'autista davanti agli operai. Devi avere il coraggio di arrivare davanti agli operai con l'autista, con la Mercedes nera, con la macchina blu. Abbi il coraggio di farlo. Ma quale macchina blu? Sì, vabbè, allora, Claudio, facciamo parlare Claudio, come hai scocciato già stasera. No! Claudio, allora. Dunque, allora, sostituito al signor Fava. Sì. Riguardo alle adozioni delle coppie omosessuali, volevo esprimere la mia contrarietà rispetto a questo. A questa cosa, perché se le coppie omosessuali naturalmente non possono avere figli, anche affidarglieli è innaturale. Se due individui sono incapaci per cause varie, fisiche o mentali, educazione o di rapportarsi naturalmente con l'altro sesso, secondo me non possono nemmeno allevare equilibratamente, naturalmente, un bambino. Vabbè, secondo lei non ci vuole tutto questo giro di parole per dire che lei non è favorevole all'adozione tra gay? Un giro di parole anche per motivare perché non sono favorevole all'adozione tra gay. Ma non è che una motivazione può essere il fatto che due non possono avere figli? È normale che due donne insieme tra di loro non possano avere figli e due uomini tra di loro non possano avere figli, Claudio? Se è normale che non possano avere figli, è normale che non li vengano affidati. Ho capito, ma che vuol dire? A parte che esiste quello che tecnicamente si chiama utero in affitto, cioè se due donne lesbiche vogliono avere un figlio, hanno due modi per farlo: o lo fanno artificialmente, oppure fanno sesso con un uomo e si fanno mettere incinta. Le faccio un disegnino o ha capito? È l'unica via giusta, perché in questo caso allora si tratta di una battaglia per i diritti individuali e per i diritti individuali della persona più debole, ossia quella del nascituro, perché ogni persona che viene al mondo ha il sacrosanto diritto di avere i propri genitori naturali, maschio e femmina. Va bene Claudio, grazie. I bambini non si prendano alle macchinette automatiche mettendo un gettone come le merendine o i caffè o le brioscine. Va bene, ho capito Claudio, ho capito benissimo. Parenzo, che volevi dire su Sallusti? No, su Sallusti volevo intanto dire che questa sentenza della magistratura, qualora dovesse arrivare, sarebbe una cosa vergognosa. E poi? Perché mettere in carcere Sallusti per quel tipo di reato sarebbe una follia, quindi solidarietà a Sallusti, massima distanza per quello che scrive. Vabbè. Nel suo il giornale. Ma che c'entra questo? Cosa c'entra? No, non è che devi dire una cosa e poi subito dire però, eccetera, eccetera. Certo, dico che c'è una distanza, per fortuna per lui, la pensiamo in modo molto diverso, ma se dovesse finire in carcere sarebbe gravissimo, mi pare. Vabbè. Domenico da Parma, buonasera. Vabbè, è una cosa molto grave per la libertà di stampa. Sì, ma io non è che sto qui a fare la solita prosopopea sulla libertà di stampa, non me ne frega niente. Cioè, ma se un giornalista. Ma sì, per un corsivo, per quello che è stato scritto in quel corsivo, una condanna a 14 mesi, quella che è, ma se diventa operativa perché ci sono altri precedenti, è evidentemente una follia. Diciamo che è una ma follia. Ma sì, però non mi metto a fare qua il coso con le bandiere, capito? Non me ne frega niente. Domenico da Parma. Pronto? Sì, dica. Sì. Buonasera. Cucciamo Parenzo. Intanto voglio ringraziarvi perché veramente mi diverto sempre come un matto quando vi ascolto. Io vi ascolto in macchina tornando dal lavoro ed è sempre fantastico. Poi stasera il doppio collegamento tra Omino e Fiorito è stato eccezionale. Vada, voglio semplicemente dire che secondo me Fiorito, da quello che ho sentito, io non riesco mica a mettere le cose addosso, anche perché lui è un'emanazione, io vorrei per dire quello che lei ha detto l'altra sera. Ma emanazione di che, scusa? Un attimo solo. C'è Ado Marti? Sì. Beh, 8 chilometri da Cassino come male. Squilla il telefono alla zanzara, eh? Squilla il telefono. Sto arrivando, Antonio, sto arrivando. Squilla il telefono alla zanzara. Possiamo mandare il traffico, molto traffico effettivamente. Sei ancora a casa, Simo? Quando la zanzarina tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco. Giacomo da Firenze. Giacomo, buonasera signor Cruciani. Dica. Senta, volevo esprimere tutto il mio sdegno per il suo supporto o comunque per la sua approvazione rispetto all'operato del signor Marchionne. Sì, si sdegni pure, si vuole sì, sdegnare. Sdegno. Sì. Sono un affezionato della zanzara, per cui mi sdegno, sì. E le spiego perché, se mi dà sì. Un secondo. Bravo. Questo, siamo gli unici, si fa, lui ha le tecnologie per fare le macchine più belle del mondo, sì. Per la Ferrari, e per fare una Lancia Cabrio la fa uguale a una macchina americana, per fare una Tema la fa uguale a una macchina americana. E dunque? Per cui questo signore, sì. Per cui questo signore, va bene, si dimostra totalmente, come dire, inadeguato rispetto al ruolo che ha. Per di più, l'Italia, gli italiani sono diventati tutti professori di cosa? Tutti grandi professori di automobili, tutti grandi strateghi del mercato automobilistico in Italia. C'entra, c'entra. La Volkswagen investe e aumenta le vendite. La Opel, che è in crisi nera, conferma gli investimenti per riprendere come dire la crescita quando il mercato crescerà. Sono diventati tutti professori sono diventati tutti professori, sono diventati tutti grandi strateghi, tutti pensano di vendere macchine. Ma non c'entra vendere macchine, Luciani. Sì, sono diventati tutti strateghi. Lui ha un obbligo nei confronti degli italiani. Ma quale obbligo? Un obbligo nei confronti della sua azienda, Giacomo, non dica stupidaggini. Ma no, ma secondo me le ha dette lei le stupidaggini, c'ha ragione Parenzo. Che mi dispiace dar ragione a Parenzo, mi creda, però c'ha ragione Parenzo. Vabbè, c'ha ragione Parenzo, dire. Sono diventati tutti quanti grandi strateghi, eccetera. Benissimo. No, hanno concesso a Marchionne addirittura di farsi un contratto ad hoc. Con la promessa di mantenere investimenti in Italia. Hanno concesso chi? La politica, ma che dici? La politica si è inventato un contratto apposta per la Fiat. Se ti piacciono Fiat. Le aziende che perdono, se ti piace mantenere in vita stabilimenti che perdono soldi, no, bravo. Ha cambiato idea e allora? Allora, prima di tutto non è che ha cambiato idea, ha disatteso un patto, che è un'altra cosa. Punto primo. Non è che ha cambiato idea. Pronto? Sì, ma non ci sono patti, in questi casi non ci sono patti, accordi. Bisogna vedere il mercato in quel momento come funziona, se uno e le decisioni di un'azienda vanno rispettate, punto. Il problema fondamentale è: ha la fiducia dei proprietari? Sì. Punto e basta. Ma no, non è così, ma lo sa benissimo anche lei, non è così. Non per me, per quello che mi riguarda, è così. No. Ma stiamo parlando, scusami, ma allora deve valere per tutti. Non è valso, ad esempio, per Alitalia. Ma che c'entra quello? Ma come che c'entra? Va bene, Franco da Modena. Esiste il mercato per tutti. Va bene, Franco da Modena. Sei diventato professore di automobili, pensi che il mercato di poter essere vincente al posto con di Marchionne? Italia. Oddio, l'Italia, basta! Franco da Modena. Sono qua. Carne di porco. Sì, va bene, Franco da Modena. Sono qua, mi sente? Dica. No. Buonasera. C'è una responsabilità. Sì, la responsabilità. Sì, certo. Certo che c'è. Sì, certo. Franco da Due latte pure. Vada, Franco, vada. Allora, due cose, due flash immediati. Qua c'è molta ipocrisia ancora, Credo che il bene per un bambino che non ha una famiglia sia quello di trovare una famiglia, che sia poi una famiglia di un uomo, di una donna, o di due uomini, o di due donne, mi pare veramente un elemento poco significativo. L'importante è che un bambino sia amato, e oggi anche nelle famiglie gli eterosessuali i bambini non sono così amati. Ecco qua. Ma tu hai domandi questo? Io lo dico da cattolico, non lo dico da laico o da miscredente, lo dico da cattolico. Io credo che i gay non possono sposarsi in chiesa, è evidente, su questo non c'è dubbio, però credo che possano fare famiglia e possono avere bambini. Secondo Flash, ho un vomito totale rispetto a questa classe politica che non si accorge ancora di quanto fa schifo alla gente comune come noi. E allora non è possibile che io, devo fare un esempio, io che sono un libero professionista, devo fare una fattura a un mio cliente, la fattura non l'incasso, ci pago l'IVA allo Stato, ci pago le tasse su quella fattura che non ho ancora incassato, e questi stronzi se ne vanno a bere lo champagne e a mangiare il caviale? No, ma non è più così. Va bene, grazie. Paolo dalla Spezia, buonasera Paolo. Paolo? Una piccola battuta rapida, no? Sì. Non so che contratto avete con Parenzo, no? Sì. Ma è possibile che questa persona qui deve stare sempre in giro per l'Italia con questo telefonino? Dalle macchine, dagli autobus, da casa, da cose. Lavora, si muove. 24, ma fatelo venire in studio, almeno si sente bene quando parla. Il problema è lavora anche per altre testate, per cui che dobbiamo fare? No, ma regalatemi un telefono, una colletta, cari amici della Zanzara, cari ascoltatori. Che dici, Parenzo? Perché come al solito non hai capito, dopo due anni, che non puoi andare sopra la voce degli altri. Dimmi. No, dico, cari ascoltatori, fate una piccola colletta, un'opera di bene, e regalatemi un bel cellulare. Benissimo, facciamo così. Grande... Non mi viene neanche male al cervello, visto che sarà colpa tua ormai, che mi viene la prostata ingrossata e tutto. Scusi, io non ho capito una cosa. Perché con un altro telefono non... Almeno c'è l'auricolare, e qui mi ammalo. Ma non ho capito perché. La gente lo sappia. Ma l'auricolare non te lo puoi comprare lo stesso? Posso comprarlo, posso fare questo investimento e comprarlo, certo. Però sarebbe come se tu dicessi a un operaio: comprati la cazzuola. D'accordo, io voglio capire una cosa. Tu che cosa desideri? Una massa, dice, fammi questa casa, dici, te la porta di cemento. Poi c'è la gomma che ha il cemento. Io vorrei capire cosa desideri, un auricolare, che cosa desideri? Desidero intanto un po' di amore, detto, primo. Vabbè, quello. Desidero un po' di tranquillità, desidero avere un bel cellulare che funzioni, multifunzione e multiservizi, desidero avere un auricolare che mi consenta di trasmettere in ogni parte del mondo. Cioè vuoi uno strumento moderno, che cosa vuoi? Cominciamo a protestare, auricolare. Auricolare. Ma c'è un auricolare, ci sono strumenti più moderni. Adesso insomma interpellerò definitivamente i nostri tecnici, che da anni mi dicono che bisogna risolvere questa cosa. Poi non si fa un cazzo. Se mi ammalo e se mi dovesse venire non qualcosa, per colpa loro, naturalmente. Il principale responsabile sei tu, e nominerei Taormina a difendermi, peraltro. Beh, tipo ingroia con Dell'Utri che e ti fa una causa milionaria. È incredibile quello che avete fatto a Parenzo, lo vedo già, che parte l'attacco. Incredibile, Cruciani, lei si deve solo vergognare, lo vedo già, guarda, lo vedo già. Allora Paolo, non ho capito, dunque? Parenzo, insomma, voglio dire, lavora per Radio 24, se ne viene in studio, no? Cruciani, lei sta in studio. Vabbè, non bisogna per forza essere in studio, può anche essere collegato da fuori, il problema è che ci sia un collegamento degno di questo nome. Comunque Paolo, la ringrazio, abbiamo preso spunto da questo suo intervento per lanciare questa petizione, o comunque questo appello a risolvere i problemi fonici e auricolari di Parenzo. Sergio da Roma e poi un ospite, Sergio. Molto buonasera, dottor Cruciani, buonasera. Vada. Ecco, io volevo fare un paragone a quello che sta accadendo ora con il caso Fiorito, con quello che forse è accaduto nel 1700 in Francia, quando poi dopo il popolo si è accorto che era il caso di tirare fuori la ghigliottina. Ora la ghigliottina oggi è un po' troppo, però forse l'astensione al voto sarà quello risultato che... Ma adesso la ghigliottina, adesso mi sembra un po' troppo. Certo. E allora? Però il paragone... E niente, questo, ho sentito la trasmissione ieri sera Porta a Porta, dove anche il dottor Taormina non ha parlato tanto, però si è incazzato con lei oggi, e quindi questa è una cosa un po' che mi destabilizza. Però ecco, il Fiorito di turno, sì, non è che è solo il Fiorito del PDL, questo avviene un po' dappertutto, chi in un modo e chi in un altro. Quindi sarebbe il caso che quel referendum dove noi tutti abbiamo detto che non dovevamo dare nessun finanziamento ai partiti, perché Lo so, Sergio, con me sfonda una porta aperta. Grazie, è con noi Ettore Martinelli, responsabile diritti del Partito Democratico, membro della segreteria. Parenzo, ci sei o no? Come no, certo che ci sono. Eccoci qui. Buonasera. Ciao Ettore. Ciao a tutti e due. Come stai? Bene, mi rifaccio ai due desideri di Parenzo, il terzo è lo stesso. Cioè quale? L'amore e la tranquillità per il PD più che per me. Ecco, l'amore dopo una certa età si passa, ma... Vabbè, ma tu sei giovane. Sei giovane, scusa. Sì, ho 40 anni, però sai, dopo un po'. Vabbè, comunque lì... Cioè, stai dicendo... Democratico ora. Beh, c'è un po' di maretta, però è normale che sia così, sì, le primarie, battaglia, eccetera. Scusami Giuseppe, perché volevo chiedere questo all'avvocato Martinelli, che peraltro è un amico. Se dovessimo fare una metafora, come dire, anche sessuale, no? Diremmo che lo stato di salute del PD, come Barzotto, come diremmo? Potevo dire? No, metterei un po' una sorta di ansia da prestazione. Ecco. C'è un'ansia da prestazione. C'è un'ansia da prestazione. Sì. Ecco, io voglio capire una cosa da Ettore Martinelli. L'altro giorno ti ho visto, Ettore, dietro D'Alema, tipo come si faceva, no? Una tipo volta. Un lecchino, dai, dillo. No, dai. Lecchino, no, però insomma. Lo accompagnavi allora, come una Madonna pellegrina alla festa del Partito Democratico. C'è un piccolo problema, che se io invito alla festa nazionale dei diritti del PD, sì, come ho invitato altri, una persona che è Massimo D'Alema, ovviamente l'ospitalità fa sì che io lo possa accompagnare. Sai, c'è chi non è venuto alla festa nazionale dei diritti del Partito Democratico, anche se è invitato. Vabbè, non è gravissimo non andare alla festa. No. Io voglio capire una cosa, ma l'effetto che fa D'Alema tra i militanti del PD qual è oggi? Guarda, dimmi la verità, non fare il D'Alemiano, non fare il D'Alemiano. No, io non sono D'Alemiano, e io credo che uno dei limiti di D'Alema siano i D'Alemiani, come di Bersani, Bersaniani, gli Iliani siano un po'. Cioè, ancora la gente appena lo incrocia. Guarda, ti dico sinceramente, io mi sono non stupito, però ho visto che molte persone, che sono quelle che si ungono all'interno delle feste del Partito Democratico, e che quindi si con abnegazione si dedicano, non come noi i quarantenni che dobbiamo far carriera a tutti i costi, che in D'Alema vedevano un punto di riferimento. Questo secondo me dovrebbe far riflettere, probabilmente da un punto di vista sociale. Ma si deve ricandidare o no, secondo te, D'Alema? Ma questo non è il problema, lo cerca. Ma dillo, tu sei nella segreteria del PD. Allora, io fossi lui non mi ricandiderei, perché tanto quello che potrebbe mirare è un posto di governo, che gliene frega di fare parlamentare semplice per parlare in italiano. Però poi ma è giusto che si ricandidi o no? Ma giusto, no, ma cosa dici giusto? Dopo tante legislature, dopo tante legislature. Assolutamente, no, non si deve candidare uno dopo tante, cioè io a lui la deroga non gliela darei, ecco. Ecco, bene, questa è un passo importante, il fatto che a Vasto oggi non c'è Bersani, cioè la foto di Vasto è scomparsa, cioè l'assenza di Bersani. La foto di Vasto è una foto che c'è, è una foto ricordo che può tornare a essere realtà, ovviamente. Tu te lo auguri? Te lo auguri? Io me lo auguro, se basta che Di Pietro si tolga da Solleone, ecco. Se Di Pietro si toglie da Solleone e torna a essere una persona normale, che pensa, come alcuni che hanno votato dell'Italia dei Valori, di essere alternativi alla destra, va bene. Se il suo unico sport, che è un po' lo sport nazionale di molti ora in Italia, è quello di sparare sul PD, ecco, allontaniamoci. Cioè, meglio l'IDV rinsavito, tu dici, dell'UDC. Ma l'UDC non vorrei capire cos'è, perché sai, noi abbiamo difficoltà noi di identità, però quello che ho visto di Casini con la Marcegaglia o così, se il nuovo è quello lì, per l'amor di Dio, ecco, proprio scomodando. Che ha fatto la signora Marcegaglia? No, qui no, puoi parlare anche male, stai tranquillo. La Marcegaglia si è tenuta Berlusconi per 3 anni senza criticarlo in nessun momento, appena, come questo è tipico, un po' la sindrome di Piazzale Loreto, no? Appena visto che stava crollando gliel'ha detto di tutti i colori. No, ho visto che quando ha fatto quella convention la domenica, togliendo il nome di Casini mettendo nome d'Italia, quindi passiamo dai Casini all'Italia, quindi è indubbiamente un passo in avanti. C'era la Marcegaglia, c'erano alcune persone che rappresentano secondo me più il passato che non il futuro, che in questi anni non hanno dato dimostrazioni di coraggio. Ecco, se il futuro è quello lì, spero in un risalimento. Ecco. Senti una cosa, ma Reggi ieri, il rappresentante, insomma, il principale collaboratore di Renzi, quello che guida la sua campagna elettorale per le primarie, ci ha detto, insomma, è meglio se vengono a votare più elettori alle primarie, e dunque, perché no? Tutti quelli che magari negli ultimi 10 anni hanno votato centrodestra sono i benvenuti a queste primarie, perché si deve allargare il più possibile, eccetera, eccetera. Su questo c'è una discussione. Poi ha detto anche che la pubblicazione di questi nomi sarebbe addirittura, potrebbe essere incostituzionale, eccetera, eccetera. Allora guarda, la Costituzione è una cosa seria. I nomi non li vuole pubblicare nessuno. Quello che ha detto ieri è una io mi sono confrontato, che magari ti può sorprendere, con il segretario del Partito Democratico, avevo dei dubbi. Penso che sia uno scalzagani su questo punto ovviamente, che nessuno vuol pubblicare nulla. Quello che noi vogliamo è che ci sia un registro chiaro, che in qualche modo che non debbano essere dispersi i nominativi, i contatti, per una grande partecipazione anche in rete, no? Che ora bisogna essere, cioè, ma vanno pubblicati in rete questi nomi o no? Ma non vogliamo pubblicare nulla, ci deve essere una banca dati. Ora, quello che ha detto ieri, che se un repubblicano americano dicesse che lui va a votare alle primarie dei democratici perché preferisce uno all'altro, cioè lo pigliano per matto, lo buttano fuori dal partito. Però in Italia non puoi dire nulla di questo, perché se dici qualcosa di questo tipo qui vieni tacciato di Ceausescu, sei stalinista. Cioè secondo te Reggi andrebbe mandato via dal partito? I garanti dovrebbero ritrovarsi. Uno che dice una cosa del genere, se lui conferma che, come dire, due a caso, dell'Utri e la Zanicchi, poi magari aspettiamo Batman, che è spettacolare Batman, magari arriva anche Batman, si prende Batman, perché l'importante è legare la partecipazione. Io lo butterei fuori, perché con tutto il rispetto per Batman e per la ghigliottina che non riuscirebbero a trovare. No, Batman non andrà a votare le primarie del PD. Ha detto questo. Ha detto che un elettore del PD e del PDL può andare tranquillamente a votare per le primarie del PD. Per me questa cosa è allucinante, perché nel momento in cui capita, David, allora nel momento in cui è fisiologico, cioè che quindi può capitare, va bene, ma nel momento in cui c'è una sorta di appello, sarebbe come se il palinsesto di Radio 24 dovesse essere scelto da Radio Popolare di Milano, da quelli Ho capito. Allora, Ettore, però la conclusione di questo ragionamento è che andrebbero presi dei provvedimenti seri nei confronti di Reggi. Allora, i problemi sono altri. Se un partito fosse quello serio di una volta, altro che provvedimenti seri, cioè? Nessun confino, Davide, sai, non usare termini che poi conosci bene. Andrebbe cacciato, ma siamo seri, ma un momento di crisi come questo qui è un danno anche a Renzi, che è un sincero democratico, che ci tiene all'unità del partito, che vuole fondare la nuova sinistra. Ecco, in qualche modo qualche domanda sul fatto che più son di destra e più lui gli garba, qualche domanda me la farei. Allora, però abbiamo la pubblicità, ho capito benissimo. Se me la faccio io, mamma mia. Abbiamo la pubblicità, torniamo subito. 800 24 00 24. Come combatte il signor Martinelli, Parenzo? Combatte come un leone. Ma Don Mazzi lo troviamo o no? Maledizione, adesso lo ricerchiamo. Tiriamo Martinelli sempre fisso. Aspetta, Don Mazzi lo devo trovare per una storia incredibile. Che ho saputo, una storia pazzesca. Voglio Martinelli fisso. Renata. Grande scontro Alfano-Fiorito. Alfano aveva detto, sentiamo. Noi in pochi giorni abbiamo cacciato Fiorito dal partito, approvato il piano delle riforme di Renata Polverini, che oggi vedrà il suo compimento in consiglio regionale. E invece non è così. Fiorito ce l'abbiamo su questo? No, adesso ce l'avremo. Tra poco ce l'avremo. Comunque, pochi istanti fa, qui alla Zanzara ha detto. Cosa ha detto, Parenzo? Ripeti. Mentito Alfano, è che non è stato cacciato manco per nulla, perché il regolamento lì prevede che siano, c'è una procedura e provi viri. Non solo, non solo ha detto questo, ha detto anche c'è gente messa peggio di me nel partito, certo, con certo, accuse molto più gravi, che non è stata espulsa e che a questo punto dovrebbe essere espulsa. Insomma, in sostanza gli ha fatto il gesto dell'ombrello. Capito? L'autorità di Alfano. L'autorità di Alfano. Questa canzone che sta spopolando è stata realizzata, giustamente bisogna ricordarlo, da Barbara Lazzari. Brava Barbara. Maurizio da Milano, è sempre con noi Ettore Martinelli, che è lì nella segreteria del Partito Democratico, nella stanza dei bottoni. È avvocato nella... anche lui. Avvocato, vabbè, ho capito, è avvocato. Ma lei difende anche gente di destra, Martinelli? Assolutamente sì. Sì? Sì, ma non per i reati alla Fiorito, ecco, per altre questioni, ma poi non lo chiedo, ecco. Per me l'importante è che paghino la parcella. Perché Reggi ha detto una cosa ieri qui da noi, ha detto se uno va di centro destra o comunque se un signore va, un professionista, va alle primarie e poi si vede il suo nome pubblicato, alcuni clienti che magari non la pensano come lui potrebbero non andarci più. È una stronzata? È una stronzata, come altre, eh. Come altre. Ma ne dice tante di stronzate. Mi pare che lei sia, diciamo. Vabbè, lui è bersaniano, diciamo. Martinelli vota per Bersaniano. Vi ricordo che, voglio dire, io alle primarie ho votato Ignazio Marino, che non sì, mi sembra so, proprio uomo di partito. No, tanto per ricordarlo, ecco. No, lo ricordiamo, lo ricordiamo, lo ricordiamo. E ricordiamo anche che nella segreteria nazionale del Partito Democratico in quota Marino, diciamo così, eh. Sì, esatto, mettiamo così, in quota Marino. Senta, bravo. Le voglio chiedere una cosa. Lei che è favorevole ai matrimoni tra omosessuali e immagino anche all'adozione, o sbaglio? Ma guardi, allora vuol sapere la posizione del PD, non le sto facendo una supercazzola, no, no. O quella che è la mia posizione. La posizione di Ettore Martinelli, il responsabile dei diritti. Ettore Martinelli è che siccome per quello che riguarda le adozioni non ti vengono date facendo una richiesta in marca da bollo, ma c'è una commissione che valuta questa Vabbè, cosa. Vabbè, sono attaccare il pippone però sulla no, procedura. No, bisogna che siano valutate anche le coppie gay, che problema c'è? Cioè, che problema c'è? Non c'è nessun problema, da qui all'automatismo dico no. Ecco, no, l'automatismo che vuol dire? Non c'è per nessuno automatismo. Bravissimo, non c'è per nessuno. Però la posizione del partito non è questa. No, la posizione del partito lo so che non è questa. Lo so Beh, che non te lo dico perché. No, ma questo è chiaro. Ecco, ma la Bindi come si colloca in questo contesto, Ettore? Scusa, la signora Bindi è nel non ha la posizione del partito, questo mi sembra chiaro, no? Ma sì, esatto. Non è... Allora. O sì. No, lei ovviamente porta in giro la posizione del partito. Ora, se ti posso fare una battuta, ora magari se qualcuno gli spiega che il matrimonio di cui si parla a volte non è il matrimonio religioso, magari cambia idea, perché non vorrei mai che si pensasse che... Ah, lei pensa, dici che vanno in chiesa, no? No, perché altrimenti io non mi appassionerei così tanto a questa vicenda. Voglio dire, l'estensione dei diritti, comunque, noi col nostro programma Un Passo Avanti cerchiamo di farlo. Il modello tedesco è comunque una cosa che nei contenuti dà i medesimi diritti. E lei non è d'accordo col modello tedesco, eh? E signora ce ne facciamo una ragione, è pazienza, problema. Ecco, ma tuo, una che nostro. Rinuncia al sesso, no? Perché lei ha detto: io nella mia vita ho fatto questa grande rinuncia che è quella del sesso, del matrimonio, di una relazione, eccetera. Ma può parlare serenamente di queste cose? Ma secondo me sarebbe meglio se occupasse d'altro, ecco, voglio dire, ma questo ognuno ovviamente si occupa di quello che crede, però incaponirsi su alcune questioni, se non è proprio il tuo settore, ecco, le lascerei ad altri. Ah, perché non è il suo settore, dici, non è il suo settore. L'ha detto lei. Non è il suo settore. Cioè una che dice che è stato un grande sacrificio, comunque la rinuncia al sesso, diciamo, il matrimonio, delle relazioni l'orientamento sessuale non è una questione che proprio dovrebbe appartenere, o comunque vederla come battaglia primaria sua, ma infatti io non penso che sia la sua battaglia primaria. Beh, insomma, è molto impegnata sui diritti sociali, su altre questioni che passano in secondo piano. Ma ecco, come dire, ma ci sta. Martinelli, ad esempio, diffida di chi non fa sesso? Beh, immagini. Sì. Vabbè, certo, bisogna diffidare di chi non fa sesso. Preferisco chi fa sesso e si pente, si confessa. Ma come pentirsi e confessarsi? Perché uno fa sesso? Perché uno si dovrebbe pentire? Nel caso in cui qualcuno avesse fatto dei voti. Ah, in quel caso. Cioè, uno che non fa sesso non può essere una persona equilibrata, diciamo la verità. No, questo non lo so, perché sarei rispettoso nei confronti di tutti i religiosi. Ecco, se nei confronti dei religiosi. No, che di quindi... chi. I religiosi fanno una scelta. Sì. Vuol dire, la Bindi quando dice io non faccio sesso e ho rinunciato al sesso, non può essere una persona equilibrata, su. No, questo può essere anche equilibrato. Cioè, magari si sforza di più per esserlo, ecco. Ah, ci vuole uno sforzo maggiore per essere equilibrato. Cioè, ci sono delle frustrazioni, dici tu. No, questo non lo so. so, tutte questioni sono personali, io adesso su questo non vuoi entrare. Battute, però non lo so, è una questione personale. Beh no, l'ha detto lei, mica l'ho detto io, però. L'ha messo... Vabbè, ma io non lo direi, ma anche perché sinceramente, ma che gliene frega a tutti di quello che fa ognuno di noi sotto profilo sessuale? Beh, poi... ma questo invece è interessante, cioè sapere che Rosy Bindi ha rinunciato al sesso, può sì, spiegare... Ma noi che ne sappiamo se ha rinunciato, se lo dice, cioè voglio dire, non è una questione rilevante, non è una questione su cui io mi appassionerei. Comunque l'ha detto, è vero, ecco, io non... No, però se l'ha detto sì, diventa un argomento poi pubblico, non c'è niente da fare, cioè, esatto, su questo non c'è dubbio. E secondo me ha sbagliato, nel senso che è una questione, siccome io non valuto una persona né per l'orientamento sessuale che ha, né per il fatto che faccia o non faccia meno sesso, poi in un pourparlé a bere un bicchiere di vino o una birra si può ragionare di tutto, però ecco... Ma pubblicamente... è inquietante una persona che dice una cosa del genere? Non è inquietante, Rosy Bindi non è inquietante, è inquietante dal mio punto di vista, che è inquietante, però è una scelta personale, che un laico la veda come una questione fondamentale, ma noi ne abbiamo viste di ogni, cioè poi dopo voglio dire, abbiamo che sentito alcune... Ma adesso faccio un esempio, sposto l'obiettivo, sì, no? Cioè, sì, io ho fatto la Cattolica e c'era Don Giussani quando io facevo la Cattolica. Bene, Formigoni, che è uno che si è rifatto da alcuni principi. Formigoni, ma no, ma troppo facile. Ma noi pigliamo alcune affermazioni che ha fatto questo signore qui nel ventennato che ha fatto, no? E sì, poi andiamo a vedere alcune fotografie, non c'entra nulla penalmente rilevante. Vedi che alcune affermazioni che hanno fatto alcune persone che credono di fare del cattolicesimo, del loro modo di essere. Sono in contrasto, dici tu, sono ma in contrasto. Ma i veri cattolici, voglio dire, gli esempi di cattolicesimo sono altri. Il cattolicesimo è una cosa importante, e lo dico io che non sono un praticante, però lasciamolo stare. Cioè, è un discorsi valoriali sono discorsi che vanno lasciati. Per esempio, i discorsi che ha fatto Paris Hilton sui gay sono molto valoriali. Ha detto i gay sono disgustosi e hanno l'AIDS. Poi si è pentita, eccetera. Va bene, Ettore, grazie. Grazie a voi, abbracci. A presto, torna presto. Chiamiamo Don Mazzi, Danilo da Roma, Ettore Martinelli, responsabile diritti del Partito Democratico. Siede lì nella stanza dei bottoni. Ti piace Martinelli? Molto, sì, è un amico storico. Voglio dire, perché io non ho problemi a dire quando conosco le persone, ma sì. No, vabbè, voglio dire, che vuoi? Perché sei così fissato con Don Mazzi? Non capisco. Perché sono fissato con Don Mazzi? Voglio chiamare Don Mazzi stasera. Cerchiamolo in tutti i modi. Mancano 15-16 minuti all'inizio della trasmissione, alla fine della trasmissione. Danilo, voglio farti un complimento. Un attimo, fammi. Trasmissione è bella e io oggi facendola dalla macchina mi rendo conto quanto è bella. Sì. Perché la gente l'ascolta molto in macchina. Ma no, ma hai scoperto una cosa nuova. Ma l'ho detto in modo però no. Ma dov'è quel, che numero è questo? Casa? Pronto? Don Mazzi? Sono pronto? Don Mazzi? No, pronto, ha sbagliato numero. E che cavolo, ma come? Ma cerchiamo Don Mazzi noi. Che ti posso fare? Sono Tommasi, se ti fa piacere, sono Tommasi. Non sono Don Mazzi, non Tommasi, Don Mazzi. Non lo sono. Ma sono lei, come si sono chiama? Sono laico, mi dispiace. Come si chiama lei, scusi? Don Mazzo. Dai, su, Don Mazzi, è lei? No, Don Mazzo. Dai, su. Non è lui. Dalla ciao. Voce non lo conosco, non ciao, è lui. Ciao. E la zanzara che arriva ogni estate in città, e la zanzara che punge e poi se ne va, si chiama tigre oppure... È successo oggi un fatto increscioso, caro Parenzo, un fatto increscioso. Un leghista di un paese qui della Brianza ha scritto su Facebook una cosa incredibile, che fra poco vi leggerò. Intanto... Andiamo a Roma da Giuseppe. Giuseppe? Sì, la sento. Vada. Io sono un elettore di centrodestra, ho sempre votato a centrodestra, però io dichiaro il mio voto e andrò alle primarie per votare Matteo Renzi. E se il mio nome andrà in database e sarà pubblicato, non me ne frega nulla, per non dire un'altra parola. No, ma lei fa benissimo a dire così, Giuseppe. Ma... Quindi loro devono capire, quella è l'alternativa. O si vota Renzi cercando di cambiare qualche cosa, altrimenti, come dicono tutti, il voto di protesta, Movimento 5 Stelle. E vediamo se riusciamo a mandare a casa un po' di gente. La ringrazio e buonasera. Grazie Giuseppe. Saverio da Foggia. Sì, buonasera. Ecco, Mi sentite? Sì, sì. Ecco, no, io volevo dire una cosa sempre riguardo la Polverini. Sì, la Polverini, sì. Che vuole dire? Volevo dire una cosa. Secondo me, che lo sapesse o che non lo sapesse, si deve dimettere. Perché se non sapeva quello che succedeva alla regione, nella sua giunta, tra i suoi assessori, vuol dire che è incapace e quindi se ne dovrebbe andare. Se lo sapeva, vuol dire che è complice e se dovrebbe andare lo stesso. O no? Ma guardi, io più o meno la penso come lei, guardi, più o meno, posto che poi però, le dimissioni del presidente di una regione sono sempre qualcosa di complicato, perché mettono in moto un meccanismo, le elezioni, eccetera, eccetera. Io sono d'accordo, ma complicate che fossero, quando ci sono i ladri, vanno cacciati. Sì, ho capito, vanno cacciati, e bisogna anche provare che siano ladri però, cioè non è che adesso, va benissimo, io ci credo al fatto che sono state commesse delle irregolarità pazzesche. Beh, non l'ha messo. Chi l'ha messo? Scusa. No, voglio dire, hanno ammesso che avevano troppi soldi, ma lui ha detto che i soldi non li ha mai utilizzati per se stesso. Ha parlato della macchina, per esempio. Ma io non me la piglio con l'assessore, me la piglio col presidente. Sì. Perché uno che sta a capo di un'amministrazione è il primo responsabile, o no? Sì, ma io sono d'accordo con lei, Saverio. Cioè, però non se ne può chiamare fuori. Parenzo, queste cose non le dite mai. Le dovreste dire alla gente, ma perché la gente ti fa un'opinione? Ma guardi che lo stiamo dicendo da 3 giorni, Saverio, cioè lo stiamo dicendo da 3 giorni. Guardi, le devo dire la verità, a me delle dimissioni della Polverini non me ne può fregare di meno. Che si dimetta o non si dimetta la Polverini non è assolutamente importante. La cosa fondamentale è che vengano tolti i soldi ai partiti. La cosa principale è affamare la bestia. Non le dimissioni della Polverini, quelli il centrosinistra dice che si deve dimettere, il centrodestra dice che non si deve dimettere, siccome naturalmente poi tutti quanti hanno paura di dimettersi in Italia, non si dimette nessuno e alla fine dopo questa tarantella di questi giorni non si è dimessa, hanno varato un piano di risparmi alla regione, vedremo l'attuazione di questo piano di risparmi, vedremo in che cosa consisterà, ma la cosa fondamentale è un'altra, è che bisogna togliere i soldi ai partiti, non sono le dimissioni della Polverini, le dimissioni della Polverini sono un gesto politico sul quale naturalmente il centrosinistra dice una cosa e il centrodestra dice un'altra. Su, Parenzo, cosa hai da dire? Non c'è nulla da dire perché se n'è andato. Daniele da Milano. Cruciani, pronto? Dica, Daniele. Non dice nulla. Un altro Daniele da Bologna. Pronto? Vada. Mi sembra ridicolo e anche un po' dittatoriale che il PD voglia chiudere le consultazioni solo a quelli che sono già di sinistra. Cioè, secondo me la consultazione più ampia è bella anche a livello democratico e può andare anche a vantaggio del PD. Sì, però scusi Daniele, non è che io per esempio non sono certamente uno di sinistra né di destra, naturalmente non sono un elettore tradizionale del Partito Democratico, credo di averlo votato solamente una volta e vorrei andare a votare, credo che nessuno me lo proibirà. Sì, esatto, ma penso che dovrebbe essere accolta favorevolmente questa cosa. A me non me ne frega nulla che il mio nome, non me ne frega nulla che il mio nome vada a finire in una mailing list, vada a finire in un database. Idem per me, andrò a votare e va benissimo. O che sia pubblicato. A me personalmente non me ne frega nulla che sia pubblicato. Se poi i giornalisti vogliono fare un'indagine su chi ha votato tra i giornalisti Renzi. Ma l'avete capito? Sì, non abbiamo capito cosa è che non abbiamo capito. Che essendo le primarie non stabilite per legge, ma sono un'iniziativa di partito, assolutamente di sì. Allora tu, Cruciani, stai giustamente, mi fa anche piacere che hai un po' di spirito democratico ogni tanto. Che cosa? Stai aderendo a un'iniziativa del partito del PD. Sì, allora. Bravo. Allora? No, non c'è allora, quindi tutta la discussione su la lista, non la lista, è come se tu aderissi al Partito Democratico. Ma io aderisco al Partito Democratico nel momento esatto in cui vado a votare le primarie. Vabbè. Un secondo dopo posso dire che voto un'altra cosa, ma qual però è il problema? Partecipi, il tuo cinismo viene abbattuto per una volta e sono felice. Ma che c'entra? A un'iniziativa di partito. Ma io ho sempre votato in vita mia, per cui in quel momento. Ma perché rimesti? Perché mi porti a ma stai facendo un ragionamento che non frega niente a nessuno. No, sto spiegando a chi telefona dicendo io voterò se però non viene messo il mio nome. È un'iniziativa di partito, una adorabile iniziativa di partito, nulla di più. Vabbè. State partecipando a questo, quindi perché vi dovete scaldare? È come se e chi si scalda? Per mi me io la festa per un giorno, è come se tu per un giorno. Certo, assolutamente. Questo va detto chiaramente, è un'iniziativa di partito. Assolutamente, infatti non ho nessun problema ad andare a votare alla primaria del Partito Democratico, ho nessun problema, anche se pubblico il mio nome a caratteri cubitali, non me ne frega assolutamente nulla. Ma lo dico a quelli che chiamano dicendo a me potrebbe dare fastidio, perché partecipano, siccome non sono stabilite per legge come negli Stati Uniti, qui è un'iniziativa di partito. Va bene, Danilo da Roma, buonasera. Pronto, Cruciale. Allora, il leghista Ferrabue, il leghista Ferrabue, Fabrizio Ferrabue, che è segretario della Lega Nord di Bovisio Masciago, sempre per la Lega 2.0, siccome si è incendiato, non mi ricordo cosa, un capannone in quelle zone, ha detto: nessun cinese morto, che peccato. Sarà per la prossima volta. Deve nascondersi come un cane. Allora, chi era? Valerio, chi era? Danilo, allora? Salve Cruciani, buonasera a lei. Sì. Io volevo intervenire sul discorso delle coppie, diciamo, omosessuali. E volevo, diciamo, dissertare su tre cose per me fondamentali. Prima di tutto, questa è una cosa mia personale, vorrei comunque, diciamo... Sì, guardi che non abbiamo tempo, per cui non può fare un comizio, deve andare al solito. Cerco di essere breve. Prima di tutto, vabbè, come cattolico comunque vorrei dare quello che è il mio dissenso, nel senso... Va bene, lei è contrario all'adozione tra le coppie omosessuali. Sì, io sono contrario, però comunque penso di rappresentare una categoria che è molto... Sì, ampia. Lei rappresenta solo se stesso. Poi? No, questo non è vero come cattolico. Non è vero. Quello che dice lei. Sì, ma è quello che dico io, quello che anch'io rappresento solo me stesso. È lei che pensa di rappresentare anche gli altri? Cioè... No, io penso di appartenere a una categoria che comunque. Ma quale categoria? Lei rappresenta solo se stesso, se ne faccio una ragione. Ci sentiamo lunedì alle 18:30. Ciao.